Questo è Pane, Burro e Rock and Roll, sono le 7:30 minuti primi. Benvenuti, l'astronave è già decollata. Missione, arrivare alle 9. C'è l'Ariele, Svadino, Fricantoni, la squadra di Pane, Burro e Rock and Roll. Messaggio lanciato a tutti gli amici e le amiche che per la prima volta si trovano su queste frequenze e forse sono presi da una curiosità. Ma ecco, ascoltiamo questo programma radiofonico. No, non fatelo finché siete ancora in tempo. Cambiate frequenza radiofonica, perché se ascoltate Pane, Burro e Rock and Roll, un giorno o l'altro potreste trovarvi vestiti in maniera veramente poco decorosa in una piazza, per strada, così circondati da altre persone vestite in maniera decisamente poco decorosa, senza che voi lo vogliate. Così è una cosa che capita. Io vi avviso veramente, se potete salvatevi, non ascoltate questo programma. Solo che poi lo so, sarà la buona musica, sarà l'affascinante voce dello speaker Ariele, sarà l'ironia di Frick, eh? Yeah! Caring for Your Love di Toto, dedicato a una coppia, moglie e marito, che vorrebbero in sepoltura a quest'ora e che trovano difficile il risveglio coi Toto. Amici, non so che dirvi. Solidarietà da Pane, Burro e Rock and Roll. Io al massimo posso strombazzarvi nelle orecchie se avete bisogno di un po' di carica. Sarà dura riprendere le file di questa trasmissione, io veramente ce la metterò tutta, però devo salutare, già che sono al reparto strombazzate, la nostra patentata 191 che mi ha un esame questa mattina che deve assolutamente passare, quindi facci sapere, di solito funziona. A proposito, noi qui stiamo spargendo medaglie a coloro che non si sono presentati ieri. Oscar contro Batte, spargendo medaglie a chi non ha visto gli Smashing Pumpkins sabato sera. Bravo Oscar, hai ragione, ce le meritiamo. Medaglie per chi non ha visto il buon Billy Corgan e soci. Cerchiamo di tornare alle varie problematiche trattate da questa trasmissione radiofonica, come quella del precariato. Roberto Fricantoni, com'è come non è, mi fa anche il babysitter. Buongiorno signor Frick. Buongiorno dottore. Le lascio Sofia, mi raccomando. Ma stia tranquillo, sono un babysitter diplomato. Allora, Sofia. No, allora tu, Fripp. Oggi è lunedì. E sai cosa succede lunedì, Fripp? No, Frick. Comunque, cosa succede lunedì? Che Sofia il lunedì odia il mondo. Quindi, se tu vuoi, mettiti lì a giocare con lo yo-yo, che io vado a dare ragione a Schopenhauer. Si comincia male. L'oroscopo consigliava dog sitter. Mai andare contro le stelle, lo sapevo, mai contro le stelle. E me, che c'è? Vediamo di non utilizzare le notizie per i soliti stereotipi, perché ne siamo colmi fin sopra le orecchie. Mi è piaciuto quel suo utilizzare a cavallo tra etilizzare e utilizzare. Mi piace, perché è il momento forse di farsi un bicchierino. Uno stereotipo tipo donna al volante, pericolo costante. Esatto. Basta. Ma basta, ma è trito, è ritrito. Diamo la notizia di oggi, lo strano ma vero, le ansie in ansia, sigla! In autostrada a 15 km all'ora, perché troppo fifona. E allora la signora o signorina perde la patente. Un automobilista inglese rischia di perdere la patente perché è trovata in autostrada mentre sfrecciava con la sua auto a 15 km orari. La pattuglia, già sbalordita per la lentissima velocità di quel mezzo, ha fermato la donna perché ha notato che continuava a pigiare sul freno. Dopo aver bloccato l'automobile per i dovuti accertamenti alla signora, sono state fatte delle domande precise e lei subito ha confessato il perché stesse tenendo quel passo. Ho paura, ha detto alla gente, non sono a mio agio sull'autostrada. L'ultima volta che è successo il poliziotto mi ha portato a destinazione. Domanda dopo domanda i poliziotti hanno scoperto che la donna aveva una vera e propria paura patologica, una vera e propria fobia della guida. Da 3 anni, evidentemente con pochi risultati, la donna si sottopone a terapia nel tentativo di superare il suo terrore del volante. La signora è stata così, ahimè, denunciata per, fra virgolette, guida pericolosa. Un giudice ha esaminato il caso e ha rimandato il possibile ritiro della patente ad una seconda udienza. Mi auguro, ha detto il magistrato all'automobilista, che la prossima volta che ci vediamo verrà in tribunale accompagnata da qualcuno e non alla guida della sua auto. È stato anche spiritoso. Che carino. Guida spericolata a 15 all'ora, avrei la morale. La dica, la prego. Per le radioascoltatrici all'ascolto. Sì, per le donne al volante. Fossero interessate all'uomo in divisa, potrebbero farsi accompagnare dai poliziotti. Andate a 15 all'ora e poi chiedete un passaggio. È una risorsa, riflettete. Pare burrera che ro, pare burrera che ro. Mazza che figata sto programma, raga! Bye. fratelli Gallagher e i loro Oasis per Little by Little. Forse sono le 7:48, almeno dall'orologio incerto. Di Rock FM, certamente. Questa è Pane, Burro e Rock and Roll, puntata strana, puntata 175, reduci da un lungo weekend. Vado a fare altri saluti. Abbiamo Valeria che richiede una strombazzata un po' particolare. Lui dice: io alle 8 devo dire al mio capo che venerdì ho dato le dimissioni. Speriamo bene. Oh, Valeria, speriamo bene anche noi. Un saluto anche al patentato 969 che commenta: ma una volta che ho visto il concerto della Rock FM Monster Band, una volta che ho partecipato al raduno surrealista di Pane, Burro e Rock and Roll, una volta che c'ho pure la mia patente da vero rocker, ma a scuola ci devo ancora andare? Sai che devo controllare il regolamento, ma forse no. Forse hai ragione, si può mollare tutto una volta che... cioè, i cardini importanti li hai passati tutti, quindi potrebbe essere. Mentre c'è razzismo, io sento razzismo nei confronti dei vecchi patentati con i nuovi patentati. Questa cosa non mi va giù, non mi piace. Voi siete solo invidiosi perché loro l'hanno guadagnata sul campo e voi col test attitudinale. Scrive Lisa: sono la patentata 862 ricevuta con test attitudinale, scritto in maiuscolo. Raccontateci qualcosa di questo raduno. Quante patenti avete regalato? Scritto in maiuscolo. È un po', tra l'altro, ragazzi, ho combinato un pasticcio. A un certo punto mi sono finite le patenti da vero rocker e devo averne consegnate almeno 3. Non vi dimate, mamma mia, che scandalo. Neanche le questure fanno una roba di questo tipo. Vediamo un po'. Abbiamo Simona da Genova, un salutone, presente sabato al concerto della Rock FM Monster Band, è contenta dei suoi 3 calendari. Dobbiamo sentire Mario, il nostro carrista di fiducia. E vorrei anche sentire qualcuno dei neopatentati, insomma, difendetevi da queste accuse che la vostra patente da vero rocker è meno valida delle altre. E a questo proposito, un ultimo saluto sicuramente al gruppo d'ascolto livornese che si è presentato ieri con la patente 09, 0987, che ci ringrazia per i momenti passati a Celle, per aver giocato insieme. Saluti a Mario e alla dottoressa di Genova. E un saluto anche al gruppo milanese, ragazzi, erano tantissimi gli amici che da Milano sono venuti a Celle, è stata una bella sorpresa, visto che nei vari anni di Rock FM ci siamo sempre complimentati con gli amici toscani o liguri che venivano a Milano a festeggiare con noi, finalmente anche gli amici di Milano sono venuti fino a Celle per festeggiare, siamo stati molto contenti. Abbiamo anche patentato il primo cane, sì. American Jesus, la cattiva religione, nelle vostre orecchie. Drag us down. tiny wheels, expressions on the faces like a stunning millions of power right up down. The view that drives the clan, he's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV, the false sincerity, the fun that had been driven by the big computers and nuclear bombs. The kids with no bones and a pimple that he's inside me. Exercising his authority. We've got the American Jesus bolstering national faith. We've got the American Jesus overwhelming millions every Buongiorno signora, telefoniamo da una radio di Milano per chiedere se lei ascolta la radio. Io l'ascolto, le volte sono molto buone, le volte sono che non vado niente. Ho capito, lei per caso conosce una radio di Milano che si chiama Rock FM? No. Ho capito, allora non le chiedo. Non la conosco perché io non è che mi occupo tanto, io ho sono capito. Un po' anziana. Sì. E allora questa qui è meglio un giovane. Sì, ma la sento molto sveglia, signora. Allora le chiedo una cortesia. Sì, della mia età, grazie a Dio, non farei cambio ancora con un giovane. Signora, posso chiedere, mi permetto, se vuole rispondermi, solo se vuole. Quanti anni ha? Io? Sì, scusi. No, sono un po' maleducato. Provi a indovinare. Non provi a indovinare. Allora, c'è qui con me in regia anche Ariel. Buongiorno. Il DJ Ariel. Secondo me, signora, ne ha 70. 70? No, secondo me ne ha 82. Va bene. C'è una persona vicino a lei? Sì. L'altro quanto pensa che ha? Ah, sì, allora sì. Abbiamo detto 1,70 e 1,80. Va bene. Tutti gli altri io glieli regalerei fino a 88. Complimenti signora. Congratulazioni, 88. Grazie. Primavere, 88 candeline. In ogni grazie signore, grazie. In ogni caso, ogni mattina. Al 10 c'è il mio compleanno. No, allora le facciamo gli auguri in anticipo. Auguri, auguroni. Intanto grazie signore. Io per la radio, il programma su non è che ci tengo tanto, no? Ho capito. Guardo solo qualcuno. Guardo questo, per esempio. Voi altri cambiate sempre orari. Tempesta d'amore. Tempesta d'amore. Tempesta sulla... d'amore. Sì, tempesta d'amore. Una grande è, trasmissione. Che era, era sulle 8. Sì. E poi fino alle 8:25. E poi l'hanno cambiato. E poi dopo due volte alla settimana arrivavano fino alle 11, ma adesso c'è un pasticcio. Ieri so che devono essere alle 7, sicuro, perché non seguitano come fanno con gli altri film. Esatto. Guardi, noi con la nostra trasmissione puntuale dalle 7 alle 9 del mattino non cambia mai. E qual è la vostra trasmissione? Allora, si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. Pane, Burro e Rock and Roll. Brava. Intanto, il burro fa male alla salute. E anche il pane bisogna mangiarne poco. Ha ragione, signora. Però il rock and roll lo si può ascoltare. Lei ballava il rock and roll da giovane, signora? Ormai ho dimenticato che ai miei tempi cosa si ballava. Ma lei lo sa che in Romagna ci sono le più grandi squadre di rock and roll acrobatico? Aspetti, prendi una matita, mi puoi lasciare il suo numero? Sì. Le lasciamo la frequenza sulla quale ci può ascoltare. Allora, va Radio bene. Rock FM. Va bene, a che ora c'è quella? Dalle 7 alle 9. Ah beh, la mattina. La mattina, brava, la mattina. Allora, io ero abituata, quando ero giovane, sì. E c'era la radio, sì. E mi sveglieva e diceva, levantasi burrito, la notte già passò. Ah, perché lei ha emigrato, è stato un emigrante. Il sole è già levato. E il sole si levantò, e quella era la musica che svegliava la gente. Ah, ma e qui in Italia oppure all'estero? Ma anche studiato. Guardi, intanto le segno il numero 107,7. Se vuole si sveglia con noi. Si sveglia con 107,7. La frequenza. Non me la va a disegnare. Beh, provo così dopo ricordarmelo. Buona giornata, signora. Grazie, altrettanto, grazie per gli auguri anticipati. Siete milanesi? Noi sì, siamo di Milano. Vabbè. Milano è un gran Milano. Buona giornata, signora. Grazie anche a voi. Grazie, ci scusi, grazie mille.